Sì, allora ci vuoi raccontare quali sono le evoluzioni e qualche vittoria di questo sit-in che c'era stato il 25 novembre? Sì, allora, la situazione di Repartina è una situazione un po' paradossale. È iniziata il 17 novembre, in cui ufficialmente sono state chiuse le attività del Repartino che si occupava delle interruzioni volontarie di gravidanza al Policlinico Umberto I di Roma, perché è andato in pensione l'unico medico non obiettore. A seguito di questa cosa, grazie ad una lavoratrice del Policlinico, siamo come rete Roma e Cittadina, Io Decido, abbiamo deciso di, nel 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, di fare un corteo per denunciare questa situazione. Abbiamo ottenuto un incontro con il direttore, che paradossalmente ha detto di aver saputo solo quella mattina stessa del pensionamento del medico. Cosa un po' assurda, visto che noi sappiamo che a luglio è stata data notizia del pensionamento e a settembre era stata data alla regione il via libera alla contrattualizzazione di nuovi medici per il servizio. Però nonostante questo, comunque il direttore si è mostrato abbastanza disponibile e abbiamo ottenuto la contrattualizzazione di due nuovi medici con la promessa di strutturarli soltanto nel caso in cui si dedicassero solamente essenzialmente al lavoro dentro al repartino, e che quindi non possono successivamente fare obiezione di coscienza e quindi sottrarsi a questo lavoro. Quindi siamo ad oggi, il repartino è riaperto grazie ad un medico che è stato messo là, diciamo, a tamponare questa situazione emergenziale, e è uscito il bando, e quindi ora entro gennaio si contrattualizzeranno questi due medici con un contratto a progetto apposta per il repartino. Quindi è una grande vittoria, perché almeno i medici che saranno contrattualizzati non potranno effettuare l'obiezione di coscienza, e quindi garantiamo la continuità di questo servizio che, insomma, nell'uno degli ospedali più grandi di Roma stava chiudendo. Sembrava leggermente assurdo, ecco. È veramente la prova che la lotta dà dei frutti, veramente sì, sì, potete, sì. Possiamo essere contente, sì, veramente, sì, perché sì, molto importante. Molto soddisfatte, sì, anche perché la storia di quel repartino è un po' la mamma delle nostre battaglie, visto che è stato aperto negli anni 70 da alcune compagne, quindi proprio per effettuare l'interruzione di gravidanza e quindi per l'applicazione della legge 194, quindi che venga chiuso, non potevamo restare in silenzio, non siamo rimaste in silenzio e ne abbiamo ottenuta la riapertura, quindi molto contente. Brave, bene, grazie. Vabbè, ti ringraziamo molto, perché comunque fa veramente piacere di almeno concludere questo nostro spazio di adesso con una nota positiva che ci dà forza e anche, cioè, nel futuro e nelle possibilità di comunque agire su la nostra società. Grazie a voi. Una buona notizia, frutto delle lotte. Grazie da tutte le donne. Grazie.